Salva Danaio di Deborah Rosciani. Giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio, nuova settimana, nuova puntata, temi vecchi in un certo qual modo, perché quello che affrontiamo questa mattina l'abbiamo affrontato più volte a Salva Danaio, però in realtà è un tema che si presta molto anche all'arrivo di numerose novità e dunque ci sembrava oggi utile poter di nuovo tornare sull'argomento del risparmio energetico nell'ambito delle nostre abitudini familiari per tutta una serie di motivi. Tanto per cominciare, perché oggi con il Sole 24 Ore esce il nuovo numero della guida low cost di qualità. Il tema di questo numero è l'energia, è un tema caldo per molti aspetti. La vistosa discesa delle quotazioni del petrolio degli ultimi 4 mesi sta conducendo verso la strada di una probabile riduzione delle tariffe di luce e gas, e questa è una novità che probabilmente si porterà, verrà alla nostra conoscenza nei prossimi mesi. Oltre a questo, il governo con il pacchetto anticrisi varato venerdì prevede anche la possibilità di congelare le tariffe. Il ministro Tremonti ha detto: ci sono strumenti per farle scendere. In tutto questo sta scaldando i motori anche il bonus energia. Io prima l'ho chiamato bonus sociale, ma non bisogna confondere i due provvedimenti che sono su piani diversi, e quindi il bonus energia per le famiglie economicamente disagiate, che partirà entro, anche in questo caso, qualche settimana, cioè da gennaio. E ovviamente stiamo parlando di tutta una rosa di misure che vanno ad interagire con un mercato che è stato interessato alla liberalizzazione partita il 1 luglio del 2007. Allora, oggi punto della situazione con le misure per risparmiare sulla bolletta di luce e gas con Rossella Cadeo, coordinatrice della guida uscita questa mattina con il Sole 24 Ore, con Roberto Malaman, direttore generale dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, e Roberto Tascini, segretario nazionale dell'ADOC, Associazione dei Consumatori. Tutte le associazioni sono sempre molto attente a tutto ciò che attiene ovviamente il mondo del risparmio, del contenimento, del bilancio familiare, per cui anche questo sarà un interessante punto di vista. I vostri interventi sono sempre possibili all'8 00 24 0024 per intervenire in diretta. Se ci volete invece scrivere, il numero è il 349 238 6666. La borsa si è svegliata proprio di pessimo umore questa mattina e quindi la settimana parte molto male per i mercati finanziari internazionali, ma dopo una settimana invece che è stata molto positiva, gli operatori oggi si affrettano alle inevitabili prese di beneficio. I cali sono però piuttosto intensi: Parigi -2,46%, Francoforte -3,17%, Londra -2,47%, Milano -3,29% sull'S&P MIB, è arrivata a perdere più di 3,5 punti, adesso un pochino risolleva la testa, ma insomma non è che ci dia molta soddisfazione questo miglioramento. -3% sul MIBTEL. Le vendite sono molto forti sul Banco Popolare questa mattina, -9,26%, ribasso che è condizionato da quello di Banca Italis, -12,79%. Cosa è successo? Che le quotazioni risentono dello stop a sorpresa dei negoziati per la partnership strategica che Banca Italis avrebbe dovuto attivare con i tedeschi di DZ Bank, e ovviamente anche il Banco Popolare, che è l'azionista di riferimento di Italis, subisce questo contraccolpo. Abbiamo poi il calo di 6,5 punti di Terna, che ha ricevuto una riduzione di giudizio di JP Morgan. Enel, bocciata da UBS, perde il 6,5%, cali molto diffusi nel settore editoriale: Mondadori -5, Mediaset -4 e 30%, presumibilmente per il provvedimento sul raddoppio dell'IVA sulle TV satellitari. E poi Intesa -5,30, Snam Rete Gas -4%. Lasciamo questo bollettino di guerra anche di questa mattina, andiamo dall'altra parte della classifica, dove troviamo il segno più su Geox +1,20% e un piccolissimo segno più su Luxottica +0,07%. Abbiamo idea che questi due titoli risentano del recupero dei corsi per il dollaro questa mattina a 1,26,64 il rapporto di cambio in questo momento. È una settimana molto importante perché abbiamo il meeting della Banca Centrale Europea giovedì, che ridurrà, è abbastanza scontata questa riduzione, il costo del denaro. Si parla di 0,5 percentuale, anche se da molti fronti arrivano richiami per una riduzione più intensa, ma è probabile che al momento la BCE si fermi a -0,5 punto, è già qualcosa, e forse con il prossimo anno arriveranno altre riduzioni del costo del denaro. Questo è il quadro di questa mattina di borsa, sul quale torneremo evidentemente ad aggiornarci anche più avanti. Per adesso però lasciamo la borsa, lasciamo i mercati, andiamo al tema dell'energia. Il calo sulle bollette di luce e gas ci sarà, ma non prima del 2009. L'onda dei prezzi ci mette mesi, infatti, a trasferirsi dal petrolio all'elettricità e al gas. Così, se il barile si è più che dimezzato dai picchi di luglio, quando quotava oltre 147 dollari, l'autorità per l'energia adeguerà le tariffe solo a gennaio prossimo. E il calo previsto si aggira attorno al 4% per l'elettricità e all'1% per il gas. Per una riduzione più consistente sul costo della bolletta, si dovrà aspettare aprile o giugno, naturalmente sempre che la quotazione del greggio non inverta la tendenza. Nel frattempo, però, potrebbe arrivare il blocco delle tariffe per l'intero 2009 preannunciato dal governo e l'estensione alla fornitura di gas naturale del bonus per i nuclei svantaggiati già previsto per l'energia elettrica. Intanto le liberalizzazioni nel mercato dell'energia, anche per il settore domestico, grazie alla concorrenza tra gli operatori, hanno già vivacizzato le offerte, soprattutto sul fronte dell'elettricità. Ma a prescindere dal tipo di contratto che si intenda stipulare, per arginare la spesa energetica si può agire prima di tutto sui consumi, ad esempio evitando gli sprechi. I consigli utili per risparmiare vanno dalla disattivazione dello standby alla scelta e all'uso corretto degli elettrodomestici. Una valida strategia antisprechi, abbinata alla scelta del contratto che più rispecchia le proprie esigenze, può infatti far risparmiare anche 1000 euro l'anno. 800 24 00 24. Tra un po' vi farò sentire anche una dichiarazione del presidente dell'Autorità del Gas e dell'Energia, Alessandro Ortis, interpellato a margine di un convegno a Consum che si è svolto venerdì scorso. Prima però un rapido giro di saluti fra i nostri ospiti di questa mattina, ai quali voglio dare il benvenuto di Salva Danaio, Rossella Cadeo, Il Sole 24 Ore. Eccoci qua di nuovo. Buongiorno a tutti. Che numero siamo di guida? Questo è il settimo numero. Il settimo numero, sì. Insomma, andiamo avanti fino a Natale, ci sono ancora diversi argomenti, ma questo di stamattina è davvero uno dei temi forse più interessanti perché è estremamente attuale. Buongiorno Roberto Malaman, spero di aver correttamente posizionato l'accento, direttore generale dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, benvenuto anche a lei e benvenuto al segretario nazionale dell'ADOC, Roberto Tascini. Tascini, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Il versante delle associazioni dei consumatori molto attente a tutto ciò che sta cambiando in questo momento e anche ai provvedimenti del governo anticrisi, che tra l'altro volevo già ricordare, noi affronteremo per tutta la settimana. Domani andiamo alla social card, al bonus sociale per i redditi più svantaggiati, mercoledì focus sui mutui, perché qua anche di novità ce ne aspettiamo un bel po', e poi andremo avanti per capire soprattutto tutti gli interventi che riguardano la platea più vasta dei nostri ascoltatori. Allora, Rossella, cominciamo con così un po' a presentare la guida per capire quali sono effettivamente le informazioni più interessanti che interessano i consumatori all'ascolto. Sì, questa è una guida che parte dalla liberalizzazione, da uno sguardo sul mercato elettrico e spiega che cosa è successo appunto alla possibilità dell'utente a partire dal 1 luglio dell'anno scorso. Quindi spieghiamo come l'utente, il consumatore di energia, può orientarsi fra le varie offerte sul mercato, gli spieghiamo qual è la differenza tra fornitore e venditore, come muoversi tra le formule che possono essere articolate in una serie di categorie principali che vanno dalla formula bioraria alla tariffa unica, al prezzo bloccato, alle formule con bonus. Parliamo della bolletta del gas e poi ci soffermiamo su quelli che sono i comportamenti, perché non basta scegliere una formula giusta per i propri consumi energetici, ma occorre anche seguire una sorta di decalogo, dei comportamenti ben specifici, sia all'atto dell'acquisto degli elettrodomestici sia nel momento in cui questi elettrodomestici si utilizzano e poi giungono al termine vita. Un capitolo è dedicato anche all'illuminazione, perché una parte importante della bolletta elettrica deriva appunto dall'utilizzo di lampade, lampadine. Ci sono delle cose da sapere anche per quanto riguarda le tipologie delle lampadine, ce ne sono di diverse e ce ne sono che permettono un certo risparmio. Poi non abbiamo dimenticato il gas, ovviamente, visto che la bolletta di una famiglia media è di oltre 1000 euro all'anno per riscaldamento, mm-hmm, nel caso avesse il riscaldamento autonomo. E ci soffermiamo poi anche su riscaldamento, il problema come riscaldare al meglio la casa senza essere salassati da spese pazzesche, e un ultimo capitolo è dedicato alle energie alternative, quali sono i vantaggi, le agevolazioni e come muoversi in questa opportunità. Non abbiamo dimenticato neppure l'acqua, perché come non è una fonte energetica ma è una risorsa esauribile, una risorsa limitata, anche questa va trattata con attenzione. Infatti, insomma, possono sembrare tutte indicazioni molto scontate, in realtà molto spesso invece l'atteggiamento di buon senso sfugge alle nostre abitudini e quindi, insomma, forse è bene anche fare un rapido e molto spesso anche frequente check-up delle nostre, dei nostri comportamenti, perché in realtà molto spesso anche l'attitudine al risparmio ci sfugge. Ci aspettiamo sempre dei grandi interventi per risparmiare, ci aspettiamo che il petrolio scenda, ma magari all'interno delle nostre abitazioni teniamo dei comportamenti pessimi, per cui anche queste sono sicuramente indicazioni interessanti. Detto questo, però, andiamo invece a quello che di concreto dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. Roberto Malamana, ancora lo ricordo, direttore generale dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, c'è il pacchetto anticrisi che è stato annunciato dal governo. In realtà sul fronte delle tariffe ancora non è ben chiaro quello che si dovrà fare, perché il governo promette una riduzione di queste, una riduzione che dovrà essere fisiologica, dottore, alla luce del fatto che il petrolio da 4 mesi scende, quindi dopo un 2008 in cui voi le tariffe avete dovuto ritoccarle verso l'alto, fisiologicamente dal prossimo anno la tendenza dovrebbe cambiare, per cui dovremmo cercare di capire bene come si intreccerà anche, no, l'annunciato intervento del governo. Cosa ci può dire a questo proposito? Guardi, posso confermare le buone notizie, le positive aspettative, in mezzo a tante notizie negative, compreso il bollettino di guerra che ci avete dato un quarto d'ora fa. Le tariffe finali del gas e dell'energia elettrica risentono fortemente dei prezzi internazionali del petrolio, ne risentono con un certo ritardo e con un andamento che è smussato dalle regole tariffarie fatte dall'autorità, però posso confermare che gli effetti positivi sulle nostre bollette si vedranno già dal prossimo 1° gennaio. Quando è che l'autority quindi deve annunciare le nuove tariffe, visto che lo fa ogni trimestre? L'ultima volta è successo ad ottobre, mi sembra? Sì, l'ultima volta è successo a fine settembre con effetti dal 1° ottobre, e la prossima volta sarà prima della fine dell'anno con effetti dal 1° gennaio. Perfetto, quindi a fine dicembre conosceremo. Certo. In che misura avremo dei risparmi tariffari e poi appunto da lì cercheremo anche di capire l'altra questione, l'intervento del governo, perché Tremonti in sostanza dice, visto che già fisiologicamente le tariffe stanno aumentando, il governo avrebbe teoricamente allo studio un meccanismo per, come dire, intervenire più rapidamente dell'autorità, ma questa è un'altra questione che attiene anche alla gestione di questo organismo e ne parleremo più avanti se novità in questo senso ci saranno. Avevo promesso di sentire anche le dichiarazioni del Presidente dell'Authority, Alessandro Ortis, sentiamolo allora proprio su questi punti. Sarà nostra cura esaminare tempestivamente il testo del nuovo decreto legge, onde predisporre e sviluppare per tempo ogni nostra azione di competenza. Per quanto riguarda invece l'annuncio e i dati di Scaiola, che ha detto che le tariffe scenderanno? Confermo che ci saranno delle situazioni positive per i consumatori. Situazione in evoluzione dunque. Roberto Tascini, ADOC, benvenuto di nuovo anche a lei. Buongiorno. Allora, voleva commentare queste indicazioni sul mese di gennaio, tendenza fisiologica, la riduzione delle tariffe per effetto dei corsi petroliferi, questo intervento del governo che ancora ha, come dire, un connotato piuttosto nebuloso, come lo interpreta, come lo vede l'Associazione dei Consumatori? Ma noi ci auguriamo che queste tendenze si concretizzino, diciamo, in riduzioni delle tariffe, perché sarebbe una grossa beffa che in una fase in cui appunto c'è una sostanziale tendenza con la riduzione del costo del petrolio alla riduzione delle tariffe, se venisse applicato una sorta di blocco delle tariffe che farebbe rimanere invariate, inalterate, quindi sui livelli che hanno raggiunto negli scorsi mesi, che sono decisamente esorbitanti. Mm-hmm. Per cui l'auspicio è che si vada a una riduzione, fermo restando che poi è difficile prevedere quelle che saranno poi le tendenze nei prossimi mesi appunto del prezzo appunto del barile. Io tra l'altro avevo anche annunciato che dovevamo parlare, e lo faremo entro pochi minuti, del bonus energia, che invece va a favore delle famiglie con condizioni reddituali piuttosto difficili. Vi spiegheremo appunto come funziona, come si fa a poterlo ottenere, perché la domanda deve passare dalle amministrazioni comunali. Però vedo già molti ascoltatori che, mentre il bonus energia scalda i motori, anche loro si stanno scaldando dietro gli apparecchi telefonici all'800 24 00 24, perché ci sono molte domande attinenti invece alle questioni del mercato libero, come è funzionato in questi mesi, perché sono molte le famiglie che hanno deciso di passare al mercato, di cambiare fornitori di energia. Non tutti hanno avuto una grande soddisfazione rispetto a questo passaggio, rispetto alle aspettative. Allora cominciamo subito con il sentire Leonardo da Matera. Leonardo, benvenuto. Buongiorno, grazie, buona giornata a tutti. Senta, io sono un cittadino molto attento al risparmio di energia, per cui mi sono precipitato ad aderire a offerte di risparmio e ho potuto constatare che in realtà, a parità di consumi, ho avuto un aumento delle bollette relative di circa il 70-80%. Ah, però, cioè è raddoppiato quasi la bolletta? Sì, sì, quasi. Come mai? Perché mi tolgono un centesimo o giù di lì sul prezzo, su una voce, e però sulle innumerevoli voci fisse me le raddoppiano, me le triplicano. Leonardo, senta, facciamo annulla, così. Non ci può dire da quale operatore se n'è andato e a quale operatore ha aderito? No, così almeno vediamo. Allora, da Enel classico, quello di sempre, a Enel Energia, tra l'altro neanche specificatomi che era un altro operatore, dicendomi che era sempre Enel. Bene, dalla prima bolletta che ho ricevuto ho constatato queste differenze, ho tentato inutilmente per mesi, è passato un anno e mezzo, non sono riuscita ad avere alcuna spiegazione, aiuto e tutti i resti. Non so proprio che pesci prendere, guardi. Ecco, magari ricambiare di nuovo operatore, questo è, come dire, il suggerimento più immediato che viene a me. Rossella, che cosa ti suggerisce questo caso? Stavi ascoltando con curiosità, poi vorrei sentire anche l'authority, se magari hanno avuto anche segnalazioni di altri episodi di questo caso, di questo tipo. Uno va cercando il risparmio perché il mercato libero tutto sommato promette questo. E invece... Esatto, ma innanzitutto questo aumento mi sembra molto forte, quindi può essere anche che l'utente, adesso bisognerebbe sentire, capire bene il caso, abbia scelto una tariffa del tipo bioraria. Queste tariffe promettono un certo tipo di risparmio, ma unicamente nel caso in cui le lavatrici si facciano tutte di notte, il 66, cioè due terzi i consumi devono avvenire durante la notte. Nel caso invece questi consumi continuassero a essere nelle fasce orarie precedenti, nelle fasce orarie diurne, si finirebbe per pagare molto di più rispetto alla tariffa standard di riferimento, qual era probabilmente quella che aveva l'ascoltatore che ci ha chiamato. Però bisognerebbe capire se si trattava di una bioraria o di possibili spiegazioni nostre. L'authority che cosa dice, dottor Malaman? Ma il caso del signor Leonardo è chiaramente un caso anomalo, e quindi vorrei dire che del 1.200.000 famiglie che hanno cambiato fornitore da luglio del 2007, da quando si può cambiare fornitore, credo che la gran parte di queste famiglie siano famiglie oggi soddisfatte. Soddisfatte perché possono scegliere, anziché un prezzo amministrato, delle soluzioni che permettono di spendere di meno, delle soluzioni che permettono di scegliere solo energia rinnovabile, delle soluzioni a prezzo fisso o delle soluzioni dual fuel, scusate il termine tecnico, in cui si sceglie insieme il fornitore di elettricità e gas e si mettono insieme le bollette. Ecco, rispetto al caso del nostro ascoltatore, eventualmente di Leonardo, dottor Malaman, credo che l'authority comunque sia disponibile a recepire casi che non sono proprio, come dire, in linea con lo spirito della liberalizzazione. Voi avete un sito dove diffondete tutte le informazioni possibili sulla liberalizzazione del mercato dell'energia. In questo caso ci sono anche possibilità di segnalare anomalie evidenti come quella del nostro ascoltatore di Matera? Non c'è dubbio, un cambio di fornitore non può portare a un aumento così consistente della bolletta, pur tenendo presente che nell'ultimo anno la bolletta è cresciuta un po' per tutti, ma questi salti non sono la norma e quindi c'è qualcosa di anomalo. Do due suggerimenti. Il primo, per le informazioni generali su cosa vuol dire scegliersi un nuovo fornitore, cambiare fornitore, andare sul mercato libero dell'energia elettrica, Abbiamo creato insieme all'acquirente unico un numero verde, se interessa ai nostri ascoltatori, come spero, il numero è 800 166 654. Per problemi più gravi e individuali, naturalmente, ci si può rivolgere all'autorità per energia. Infatti, a Salvadanaio questa mattina parliamo di bollette di luce e gas alla luce della possibilità che le tariffe si possano ridurre a partire da gennaio, alla luce del possibile intervento del governo su un congelamento delle tariffe, alla luce delle novità che sono arrivate con la liberalizzazione del mercato. E stavamo ragionando però anche con Rossella Cadeo, con tutti gli interventi che arriveranno, certo, bene, grazie al petrolio che scende tutto, ma se il freddo continua ad essere in questo tenore, Rossella, qua non so se con i termosifoni, insomma, che andranno a mille per tutto l'inverno, ecco qua che vanifichiamo subito, il tempo non ci viene proprio incontro quest'anno. Vabbè, pazienza. Allora, Roberto Tascini, ad hoc, siamo rimasti con le ultime considerazioni sui temi della liberalizzazione del mercato, la possibilità di cambiare più facilmente fornitore di luce e gas per qualche consumatore, però la brutta sorpresa in realtà di non trovare alcun risparmio, anzi trovare sorprese in contrario, al contrario qualche volta. Capita spesso secondo i rilievi dell'Associazione dei Consumatori? Ma noi abbiamo salutato positivamente la liberalizzazione del settore. Devo dire che a distanza di poco più di un anno dobbiamo registrare, fortunatamente non casi eclatanti come quelli illustrati dal radioascoltatore poco fa, ma una certa, almeno dal nostro punto di vista, delusione abbastanza diffusa da parte di coloro, di quel 1.200.000 persone che hanno scelto un nuovo gestore, un nuovo fornitore, rispetto a quello che si aspettavano, almeno da quello che era pubblicizzato dai loro slogan, dai loro spot pubblicitari. Io credo che questo confermi un'esigenza che noi abbiamo rappresentato fin dall'inizio, nel momento in cui è stata avviata la liberalizzazione, quella di consentire alle famiglie di avere un quadro di confronto chiaro, di comparabilità. Ora, ben venga il numero verde che è stato poco fa citato da parte dell'autorità e che consenta appunto di rivolgersi e di avere delle indicazioni e quindi di presentare anche delle segnalazioni, ma credo che un passo ulteriore sia quel famoso price calculator per cui consentirà di individuare l'offerta più vantaggiosa, più appropriata rispetto al nostro profilo di consumo. Sentiamo allora subito l'autorità Tascini, perché ci interessa capire a che punto sono con il price calculator, questa sorta di preventivatore, un po' come l'ISVAP sta tentando di attivare per le tariffe assicurative. Lo stesso l'autority si sta muovendo per cercare di rendere comparabili nella maniera più chiara possibile per i consumatori le offerte. Dottor Malaman. Sì, uno strumento oggi esiste già e lo raccomando caldamente agli ascoltatori. Ogni volta che vi arriva un'offerta da un fornitore nuovo di elettricità, cercate con cura, c'è una tabella, deve esserci obbligatoriamente perché l'ha imposta l'autorità per energia. In questa tabella si dice molto semplicemente con due numeri quanto spendete oggi all'anno con il prezzo che pagate attualmente l'energia elettrica e quanto paghereste col nuovo fornitore. È un'informazione fondamentale, poi guardate anche se il prezzo è fisso, se sono rinnovabili o quant'altro, ma questa informazione c'è sempre. Quindi in sostanza un servizio di questo tipo per individuare in via preventiva quali risparmi possiamo ottenere cambiando operatore, però il price calculator è qualcosa di più evoluto rispetto a questo strumento che già esiste sul sito dell'Authority? Sì, è qualcosa di più evoluto, è un meccanismo che stiamo costruendo e che dovremmo rendere disponibile nel mese di dicembre. Non metto ancora la mano sul fuoco, ma dovremmo farcela. Addirittura entro la fine dell'anno? Sì, permetterà, mettendo dentro le proprie caratteristiche, sostanzialmente quanto consumi in un anno e se preferisci avere anche la tariffa bioraria, la distinzione tra giorno e notte, ti permetterà di vedere le diverse offerte che ci sono sul mercato e la convenienza. Benissimo, intanto per chi ha già aderito al mercato libero c'è un altro dubbio che comincia a pervadere un po' di queste persone, di questi consumatori. Allora, ce lo facciamo interpretare da Giulio da Como, che saluto. Giulio, benvenuto. Buongiorno. Ci dica. Volevo dire, io ho avuto contatto dall'Enel, che è il mio fornitore, che non ho mai cambiato, però sì, nessun tipo di fornitore, e mi ha fatto delle offerte, la fascia bioraria o una fascia normale con uno sconto, portando da, siccome le tariffe variavano da 0,10 a 0,13 a kilowatt, mi ha fatto un'offerta di una fascia bioraria che va dalle 7 del mattino alle 7 di sera per 0,11 e dalle 19. Insomma, lei ha trovato che la bioraria, ecco, ha trovato che la bioraria fosse quella più idonea alle sue alla esigenze. Alla mia esigenza, perché io non sono in casa, perché siamo in due, lavoriamo tutte e due, quindi certo, di giorno non c'è nessuno. Quindi adesso qual è il suo timore, Giulio? No, io voglio dire, non è, io ho aderito a questa cosa qua. Io dicevo, avevo anche chiesto quando mi ha telefonato alla signora che mi spiegava le cose, e io ho chiesto se, siccome si prevedeva un abbassamento di tariffa, il governo dice che si ridurranno perché la benzina è diminuita, questo è quell'altro, il petrolio è sceso, certo, e volevo dire, non è che poi si diminuisce di più dello sconto e io mi trovo a pagare di più. Questo è Giulio, il mio punto di ma più che lei, questo timore, questa possibilità, questo dubbio, questa paura riguarda tutti quei consumatori che, in virtù delle iniziative degli operatori che hanno colto le opportunità del mercato libero, hanno bloccato le tariffe nella prospettiva che il petrolio continuasse a salire. Molti hanno detto: offriamo ai nostri consumatori la possibilità di bloccare per 2 anni appunto le tariffe. Le hanno bloccate sui massimi livelli. Dottor Malaman, cosa rispondiamo alle perplessità di queste, giuste secondo me, di questi consumatori? Ha sollevato un problema serissimo. Chi ha firmato un contratto col cosiddetto prezzo fisso ha scelto di congelarlo al prezzo di quel momento. Quindi ha risparmiato molto in fasi in cui il prezzo del petrolio e quindi le tariffe elettriche crescevano, potrebbe smettere di risparmiare domani, non c'è dubbio. Per fortuna, come ha scelto, può ancora scegliere questo cliente. Quanto sono vincolanti questa offerta? Adesso dovremo ovviamente riguardare anche le proposte degli operatori, i contratti singoli firmati, immagino, però ecco. In linea di massima, regola generale, che con un preavviso molto breve di 30 giorni si può nuovamente cambiare fornitore. È bene dire che il cambio di fornitore una volta all'anno è gratuito per l'energia elettrica. Se si cambia 2 volte nel corso dello stesso anno, il secondo cambio si paga. Però ormai siamo a dicembre, quindi chi ha cambiato nel 2008 da gennaio può cambiare di nuovo senza costo. Può aspettare proprio il 2 gennaio a farlo eventualmente. Consigliamo, però, se posso permettermi, certo, di prestare attenzione. Il prezzo fisso è un prezzo conveniente quando il prezzo del petrolio sale. Quindi adesso la tendenza è cambiata, per cui è evidente che dovremo un attimo rimettere mano alle nostre bollette e ai nuovi contratti che abbiamo firmato di recente. Magari questo però potrebbe essere lo spunto per una nuova puntata di Salvadanaio più avanti, mettendo a confronto gli operatori che hanno proprio focalizzato la loro nuova offerta sul blocco delle tariffe. Cosa intendono fare con i consumatori che hanno bloccato le offerte, che hanno aderito a queste proposte? Sentirei Giuseppina dalla provincia di Latina. Giuseppina, benvenuta. Buongiorno, grazie per avermi richiamata. Grazie a lei, Giuseppina. Allora, io sono già due anni, forse anche di più, non ho calcolato bene, che faccio un sacco di attenzione alla casa e ho insegnato a marito e figli, che prima erano un po' distratti, a fare una serie di cose perché non ce la facevamo proprio più a sostenere le spese delle utenze, che erano molto alte. Famiglia di quante persone? Siamo Giuseppina? 4 persone. Quindi famiglia tipo? Sì, con un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 18. Che stanno sempre lì sotto a fare la doccia, insomma. Esatto. Consumare acqua, esatto, e riscaldamento. Quindi abbiamo iniziato, ecco, a lavarci le mani mettendo la vaschetta nel lavandino, lavarci i denti sempre con la vaschetta sotto e usare poi l'acqua che si riempie anche molto velocemente la vaschetta, ecco, bisogna infatti dire. E questo suggerimento fa che conto... Rossella Cadeo non ha messo nella guida low cost, quella della vaschetta gli è sfuggito. E quindi Giuseppina, no, perché prima ogni pettinata di capelli nel water si tirava, insomma, lo sciacquone, non era una cosa proprio possibile. E poi l'uso dei saponi e degli shampoo, importantissimi. Ne usavano tanti, quindi più acqua poi per sciacquarsi, certo, certo, i capelli, il balsamo. Insomma, una sera li ha presi a cena, signori, qua o si cambia o se no... Ho fatto proprio dei post-it per tutta casa. Ha fatto benissimo, però Giuseppina, quello che mi interessa capire è quanto è arrivata a risparmiare? La metà. Addirittura? Sì, la metà. Addirittura con l'acqua è un anno che non pago più l'acqua perché devo ancora... Andare a conguaglio di tutto quello che aveva anticipato in precedenza. Sì, esatto. Con la luce idem, abbiamo sostituito tutte le lampadine, l'attenzione a spegnere sempre la luce quando si esce da una camera passaggio da una camera all'altra, anche il lumino sulla scrivania che prima si lasciava acceso, tutte le cose in stand-by di cui si parla, i porta, i caricabatterie che prima venivano... È interessante anche quella dello stand-by, perché molti sostengono che sia una sciocchezza, è tutt'altro invece. No, è verissima, quindi anche la... insomma, tutto. L'abbiamo insegnato anche ai miei suoceri, l'abbiamo divulgato agli amici. Un bel modo anche per fare una bella chiacchierata in famiglia, ristabilire anche un certo clima di dialogo. Giuseppina, la ringrazio, io starei ad ascoltarla molto volentieri, però abbiamo capito che insomma anche cambiando le abitudini in casa, anche se ci sembra tutto sciocco quello che sono appunto le raccomandazioni più elementari, non c'è un bel niente di elementare in una fase di questo tipo. Se non si cambiano anche dei comportamenti, non riusciamo a risparmiare. Il risparmio di bolletta di luce e gas. Allora, Roberto Tascini, ADOC, ricordo ancora il numero verde per intervenire, 800 24 00 24. A parte le questioni economiche che gravano sulle bollette, che poi si riversano sui consumatori, come abbiamo più volte detto in questa puntata, c'è tutta la sfera che attiene anche all'educazione, al risparmio energetico, e ritiene che anche alla luce delle difficoltà economiche che il nostro paese sta vivendo, che si andranno intensificando presumibilmente nel 2009, ci sia stato uno sforzo nel senso dell'educazione al risparmio energetico da parte delle famiglie a modificare abitudini, comportamenti per evitare sprechi di energia e denaro. Qual è il lavoro anche delle associazioni dei consumatori in questa direzione? Ma noi siamo in perfetta sintonia, in linea anche con le nostre iniziative e le nostre guide per cercare di ridurre il più possibile gli sprechi e quindi per invitare, diciamo, i consumatori a comportamenti più virtuosi che possono contribuire in misura anche sostanziale alla riduzione evidentemente delle bollette. C'è una crescente sensibilità in questa direzione, devo dire che è dimostrata nel piccolo anche dal modo in cui sono andate esaurite le copie, ad esempio, delle vostre iniziative, delle vostre pubblicazioni low cost sui vari fronti, anche quest'ultima sull'energia, e quindi vuol dire che la gente è molto attenta e credo che su questo fronte ci sia da fare ancora parecchio, perché ovviamente avere un'attenzione, come è stato detto, sull'utilizzo della stessa, diciamo, energia per l'illuminazione, quindi l'utilizzo di lampadine fluorescenti piuttosto che a incandescenza, un corretto uso degli elettrodomestici, la scelta degli elettrodomestici, scegliere modelli di classe A+, che consentono ovviamente di risparmi rispetto a quelli tradizionali addirittura della metà, e leggere attentamente nel momento in cui si formula l'acquisto le etichette energetiche di questi elettrodomestici per vedere quella più consona, diciamo, rispetto ai propri consumi. E poi non solo, c'è anche un altro fronte, non solo quello delle attenzioni, diciamo, individuali che sono state in gran parte citati, ma anche ad esempio i risparmi che possono provenire anche da un corretto uso ad esempio dell'energia e degli impianti di riscaldamento all'interno dei condomini, per cui sarebbe da favorire la diffusione della termoregolazione del calore, ad esempio, e non solo, anche quella della contabilizzazione individuale, i contratti di servizi energia. Ecco, ci sono parecchie iniziative e parecchie opportunità su questo fronte, anche se purtroppo, sempre su questo ripeto fronte dell'efficienza energetica e degli interventi a livello condominiale, una piccola battuta d'arresto potrebbe esserci se non vengono confermati, come sembra, gli incentivi del 55%. Esatto, ecco, era indubbiamente un'iniziativa che aveva messo in moto parecchi interventi in questo senso. No, tra l'altro la ringrazio per aver citato questo aspetto, perché non le sto neanche a raccontare quanti messaggi stanno arrivando inaspettatamente, perché non credevo, e per cui questo rende come dire improrogabile un appuntamento di Salvadanaio su questo argomento. Starebbe diventando più difficile usufruire dello sconto del 55% su IRPEF e IRAS per gli interventi di riqualificazione energetica, perché a questo punto c'è una nuova procedura, occorre inoltrare le domande all'Agenzia delle Entrate e in base all'ordine cronologico con cui l'agenzia riceve queste domande comunica l'esito della verifica agli interessati. Se entro 30 giorni non c'è un esplicito consenso da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'intervento si ritiene rifiutato, l'intervento fiscale naturalmente, per cui c'è questa novità che contenuta nel decreto legge 185 approvato venerdì scorso, sul quale torneremo, vi prometto, con Salva Danaio per capire un po' meglio i termini. Rossella Cadeo, sui consumi elettrici sono pronte le agevolazioni ai cittadini in difficoltà? Sì, abbiamo questo bonus energia di cui si è parlato per mesi, finalmente sta per decollare. È un bonus energia che è rivolto alle famiglie in condizioni di disagio economico. Sono previsti come aiuti 60 euro all'anno per i nuclei familiari di una o due persone, di 78 euro se il nucleo ha tre o quattro persone e di 135 euro se il nucleo di dimensioni superiori. Condizione basilare è che comunque la famiglia abbia un reddito, un indice ISEE che non superi 7.500 euro. Adesso è pronto, è accessibile online il sistema informativo che consentirà ai comuni di ricevere le domande dei cittadini interessati e di trasmettere quindi ai distributori dell'energia elettrica. Ecco, magari facciamo intervenire il dottor Malaman dell'agenzia dell'autorità appunto per l'energia elettrica, perché la strada per poter ottenere questo bonus in primo luogo è quella di attivarsi presso la propria amministrazione comunale, anche se poi, questo magari è un tema che spiegheremo meglio domani, per chi ha diritto a ricevere la social card avrà un accredito automatico di questo bonus, vero dottore? Sì, confermo tutto quanto avete detto. Ricorderei anche i tempi di questa operazione. Esatto, sì. Per il bonus energia dell'energia elettrica, il bonus si può avere già per l'anno 2008, il sistema però sta partendo adesso e la domanda andrà presentata entro la fine del mese di febbraio di 2009. Quindi ancora un attimo di pazienza, è praticamente tutto a posto, i moduli saranno anche disponibili nei prossimi giorni, poi si potrà presentare la richiesta al comune con la dichiarazione ISEE, comunque retroattiva sull'anno 2008. Benissimo, intanto andiamo a sentire qualche ultimo ascoltatore prima dei saluti, perché anche stamattina come al solito Salva Danaio è letteralmente volato via. Alessandro da Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie a lei per la trasmissione innanzitutto e un saluto a tutti i suoi ospiti. Un saluto a lei Alessandro. Io dico una cosa, ben vengano tutte le iniziative per passare alla bolletta energetica, iniziative pubbliche, iniziative private, per carità. Però vediamo un attimino com'è formata questa bolletta elettrica. Noi abbiamo una bolletta, e per noi intendo tutti gli italiani, che pagano i consumi, le imposte e l'IVA. Allora, se i consumi, va bene, quello che uno consuma lo paga. Le imposte, abbiamo le imposte erariale, l'addizionale comunale, l'addizionale commerciale. Poi abbiamo l'IVA che grava sia sulle imposte sia sui consumi. Io dico che se volessero veramente abbassare qualche cosa, potrebbero abbassare le tasse e più che altro togliere l'IVA che grava sulle tasse, perché io penso che sia anticostituzionale pagare una tassa su una tassa. E le categorie dei consumatori lo sanno, perché hanno anche provato a intentare a fare delle iniziative e non sono riusciti a cavare nulla. Grazie. Però è questo il fatto. E sicuramente il risparmio è maggiore delle 70 euro che propone il governo. Alessandro, io la ringrazio. Questo appunto è un settore sul quale effettivamente grava una tassazione piuttosto importante, imponente, sulla quale credo che poi in una fase come questa ci sia ben poco da fare, perché il governo ha bisogno di reperire tutte le risorse possibili e immaginabili appunto proprio anche per gestire la crisi. Poi vedremo se commentare il suo caso. Sentirei però di nuovo anche, Michele da Piacenza, perché di nuovo torniamo invece su un caso con il quale abbiamo aperto Salva Danaio. Credo che a questo punto l'intervento dell'autorità si renda assolutamente improcrastinabile. Michele, benvenuto, rapidissimo se può, perché siamo quasi ai saluti. Sì, senta, io nel 2007 ho aderito a cambiare il fornitore, da Enel Distribuzione sono passato Enel Energia. Sì. E mi sono trovato poi una bolletta molto più cara di quella che pagavo prima. Ecco, ci dica un po' anche lei di quanto, Michele? Ecco, è un bel 40% in più. E qua sì. Siamo un po' meno al 70% indicato da Leonardo. Ecco, è il sistema poi, come fanno a contare i kilowatt questo? Vabbè. Ad ogni modo io mi sono rivolto alla Federconsumatori e ho dato la disdetta. Volevo tornare alla vecchia fornitura, sì, come era prima, mi trovavo bene. Bene, non sono, è un anno che cerco di uscire e non riesco, raccomandate tutto, questi non rispondono, questi fanno finta di niente, io voglio cambiare, voglio tornare dove ero prima, raccomandate, casella postale, tutto Michele, quanto. Michele, ci faccia la cortesia, che a questo punto la giriamo noi questa richiesta all'Enel, magari mi rivolgo direttamente all'ufficio stampa, sono sempre stati estremamente disponibili, questo devo darne atto appunto a tutti i casi un po' complessi come questo, per cui almeno cerchiamo in questa maniera di capire soprattutto perché non devono rispondere ai consumatori. Quantomeno rispondete, dite di no, grazie, lei ha firmato un contratto, non glielo vogliamo modificare di nuovo, ma almeno rispondete. Posso assegnare la conclusione della nostra trasmissione all'autorità per il gas e l'energia, dottor Malaman? Allora, comportamenti cambiamoli, rendiamoci tutti un po' più virtuosi, anche l'autority farà il suo, insomma, accontentandoci grazie al petrolio dal prossimo mese a ridurre un po' le tariffe. Sì, intanto meglio dire che confermo che si può in qualunque momento cambiare il proprio fornitore di nuovo o si può tornare alla cosiddetta tariffa amministrata o di maggior tutela. E poi vorrei spezzare una piccola lancia di ottimismo, diciamo. Abbiamo parlato di concorrenza, di petrolio che scende, di interventi del governo di contenimento delle tariffe e di bonus sociale. Sono 4 notizie positive in queste giornate non sempre allegre, non sono poco. Grazie a Roberto Malaman, direttore generale dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, a Roberto Tascini, segretario nazionale ADOC, a Rossella Cadeo per Il Sole 24 Ore, per la guida in low cost e di qualità oggi in edicola con Il Sole 24 Ore dedicata all'energia. Salvadanaio torna domani, buona giornata a tutti.